Allora, anche oggi ci mettiamo alla scuola del Vangelo per imparare, per portarlo nella vita. E ascoltiamo troppe cose da dover commentare in 5 minuti. Ascoltiamo dagli Atti degli Apostoli un fatto interessantissimo. Siamo al capitolo sesto. La Chiesa si è sempre interessata, a quei tempi e ancora oggi, di annunciare la verità di Gesù, ma anche di venire incontro alle necessità materiali della gente. L'abbiamo sentito addirittura nel Vangelo di oggi. La gente è andata per ascoltare Gesù, ma Gesù non li manda via a pancia vuota. Opera la moltiplicazione dei pani. La Chiesa, di fronte ai suoi figli, o comunque a chi la accosta, anzitutto annuncia Gesù, ma non si dimentica anche di venire incontro alle sue necessità materiali. Guardate che questa è una regola, eh? Se i missionari vanno nei paesi di missione, assieme alla Chiesa costruiscono il dispensario, la maternità, un ambulatorio. Costruiscono delle scuole, costruiscono perché l'uomo va amato in tutta la sua interezza, anima e corpo. Solo che a quel tempo si è verificato un fatto che la gente bisognosa era moltissima e gli apostoli non riuscivano ad arrivare a tutti. E allora sorgeva del malcontento, ecco, voi fate le preferenze. Perché quelli là sono dei vostri, di lingua ebraica, li aiutate prima e di più. Noi che siamo di lingua greca, siamo gente straniera, ci lasciate per ultimi e non riuscite. Allora gli apostoli hanno detto così non va bene. Dobbiamo non fare tutto noi da soli, dobbiamo farci aiutare. Scelgono 7 diaconi, cioè 7 servitori. Gente, dice gli Atti degli Apostoli, pieni di Spirito Santo e di sapienza e gente stimata, di buona reputazione. E dicono a loro, guardate, aiutateci. Aiutateci nel servire la gente. Noi faremo quello per il quale Gesù ci ha chiamati come prima missione, annunciare il Regno. E così fecero, e così la Chiesa continua ancora oggi. Per cui i sacerdoti come primo compito hanno di annunciare il Regno e di celebrare la parola di Dio e l'Eucaristia, la preghiera e il servizio della parola. E nella Chiesa, oggi come allora, c'è sempre gente che si occupa, diremmo oggi, della Caritas. Io ho conosciuto diaconi sposati, con moglie, figli, che hanno un proprio lavoro e che nello stesso tempo mettono a disposizione la loro vita nella vocazione, che è una vera vocazione, al diaconato per servire la comunità e diventano, per esempio, riferimento della Caritas. Oggi per fare il bene occorre anche conoscere tutta una legislazione, occorre conoscere quello che lo Stato ti chiede, non puoi. E il sacerdote non può mettersi, il sacerdote deve mettersi a studiare la parola di Dio, deve portare la santità al popolo e nello stesso tempo la Chiesa deve essere competente negli aspetti tecnici, amministrativi. Ecco il diacono che cosa fa? E io ho visto questi diaconi stimatissimi anche dai servizi sociali del comune, perché vedono persone consacrate, è un ordine, fa parte dell'ordine, del sacramento dell'ordine, il diaconato, persone consacrate che si dedicano precipuamente a servire l'umanità nei suoi bisogni materiali. Certo, non fa male se il popolo vede che ogni tanto anche il prete si mette il grembiule e se c'è da dare una mano a scopare un ambiente perché non c'è nessuno che lo fa, si mette a farlo anche lui. Però di per sé, se una comunità lascia il prete a fare questo, è una comunità che non funziona bene. Dovrebbe intervenire e dire: don, grazie che ci dai una mano, però forse il tuo compito è vai che ce l'ha una persona da confessare, vai che c'è una persona in crisi che ha bisogno di sfogarsi e di ascoltare qualcuno. Prepara bene per favore il pensiero quotidiano nell'Eucaristia, poi se ci dai una mano non la rifiutiamo, è anche bello, sta anche bene, ma il tuo primo compito è un altro. Non so se rendo bene l'idea. Questo denota la maturità di una comunità. Se il prete deve correre lui in comune a parlare con i servizi sociali perché non c'è nessuna persona laica della sua comunità matura per farlo, non è un bel segno. Se il prete guida lui la ruspa per spianare il campo di calcio dell'oratorio invece di mettersi a fare catechismo ai ragazzi, non è un bel segno. Certo, la gente lo osanna, io ho visto, preti andare loro a trattare l'acquisto delle piastrelle, preti mettersi alla guida di un bulldozer per spianare, erano stimatissimi dal popolo, ma è proprio questo il compito del prete? O uno insegue anche il successo mondano? Noi dobbiamo fare la comunione dei beni, sia materiali ma anche quelli spirituali. Bene, allora portiamo a casa anche da questo brano degli Atti, capitolo 6, la gioia di vedere una Chiesa che si occupa dell'umanità tutta intera, dei bisogni materiali dell'umanità e quanto c'è bisogno di farlo ancora di più, ma che si dedica ancora di più nei suoi pastori a diventare santi, tutti inzuppati di preghiera, inzuppati dei sacramenti, affinché possano dare assieme ai loro collaboratori laici un dono completo per l'anima e per il corpo ai loro fedeli.